E. Ascolta e controlla. Dal dentista. Siediti, apri la bocca. Ecco, aprila bene. Dimmi dove senti dolore. È questo il dente che ti fa male? Bene. Adesso stai fermo, non muoverti, e vedrai che non sentirai niente.